faccia? Ma c'è la calma là? E quale? Dall'NPD. Eia. Quando un po' come arrivo con l'NPD? Fammi vedere, quale, che canale, all'uno? No, vabbè, lascia stare, dai. C'è un carico io. Cava. Cava, cava. No, lascia le cose, qua c'è tutto salvato, non sento nessuno. Io lo stesso, attenuato, non sento da nessuno, a posto. Un attimo di tempo che ne approfitto, già torno subito, vado a prendere un goccio di caffè, dai, che è già pronto. Kappa Gamma. Kappa Gamma, lui sta sempre viaggiando, sempre andando. Oh. Ehi, ehi. Ma te l'hai levato a faccia? Sta guardando da Matteo. Eh? Da Matteo sta guardando. Ah, da Matteo. Brava. Brava. Anda bene, ragazzi. Ah, sei qui che nel 48 c'è il buon ascolto, eh? Cazzo di diavolo, io questa scatola di sardina che trovo un casino, non so. Mi sento dentro le cuffie. Conta a me, facciamo voi dire. Ti ricordare quella domanda là, Ehi, così la spedisco. Scappa. Quando vieni ti do tutti quei calcoli là, quelli che ho fatto io, vorrei tre coppi. Già va bene, anda bella vera. Senti questa musica araba, strana, blu. Via. Domani fa bello. Speriamo che faccia come oggi. Già fatto bello, però c'è freddo fuori. A me c'è fresco, porca miseria. Ma facendo dei lavori in officina c'era un freddo allucinante. E come è andata oggi? E come è andata bene? Meglio così, già va bene. Ma sicuramente questo microfono non è cosa del computer, perché ce l'ha acceso, ecco dove entra. E spegne il computer. Cava, ma lo sento solo se fischio, se parlo non lo sento, capito? Se spegne l'amplificatore non lo sento. Cava, adesso deve essere che prova a spegnere, deve succedere. Ecco. Non entra più. Aspetta. No. Cava, c'è un periodo che con l'altra antenna entrava dentro il televisore, c'è un amplificatorino così piccolo e faceva un casino niente. Niente, per forza che entra. Cazzo, quella bumera era micidiale, la roba di TV hai. C'è una bingo per TV hai. Si tocca la mano. Sabato mattina lo sei sopra il tetto, lo sistema da come corrente. Cava, anda per la vela. Devo sistemare quei tiranti, perché si sono tagliati i tiranti dall'antenna, ed è un casino adesso. Allora, ha chiamato Vincenzo, che sei tu su, stava sistemando la tavola, ma ha detto, bravo, c'è tutti i tiranti, tutti a terra. Il dipolo è sceso completamente in terra, quindi devo salire a sistemare un po' tutto. Allora, come sono mollati? E cosa ne so? Beh, qualcuno te l'ha staccato, no? Infatti, perché non legate... No, perché io li avevo legati alla canna a fumi, capito? Cava. Io trafano lì nel cornicione, gli metto quelli... quei tassiti a corda all'occhiello, e quindi non c'è un problema. E non sbagli, metto il tassello e non sbagli. Infatti, non ne c'è più. Va a passare quell'antenna, così stavano le due corrette. Devo abbassarla e sistemare un po' tutto. Quello prende il catrame, metterlo in giro al tubo. Sicuramente non si tocca il catrame che c'era. Con quel vento mi ha fatto un casino sopra. Come sono andato un po' magari. Cavolo, magari poterlo mettere sul tetto io l'antenna. Va bene, lì. Tu c'è praticamente il simulatore di terra che sta toccando, sta radiando sopra il tetto, lì. Sopra il cornicione c'è il simulatore di terra. Non va bene con l'antenna. Stazionale quanto ne hai? Sono 1.4, dai. 1.5 neanche ci arrivano. Cazzo, 1.4 stazionale. Allora, aspetta il controllo. Cava, 1.3, 1.4, so. C'è quanto ne ho qua? 1.1. Neanche si muove l'ago. Appena si muove. Brava. Oh, che qua c'è sempre una soluzione, Cazzo che promesso da mio zio, da quella vita di fronte, salire dal terrazzo suo, mettiamo una scossa e il tetto nostro. Pagava. Cazzo mi hai tu? Io. Che stazione non ne ho uno, ma appena più di uno, ma no, sono tutte le bande, Cava, ehi, mi sa a me, che la stessa è buttata da lì, dove adesso, e fare questa operazione qua, tanto lì, confina con col testo di mio zio. Quella non va bene lì, quella bisogna spostarla, muove sopra il tetto con l'antenna. Cava, soltanto se disturbo o c'ha disturbi lui, boh, sono che qua che accusa a me. Se non disturbi adesso. No, adesso non disturba nessuno. Se la metti sul tetto dovresti disturbare ancora di meno. Ehi, ma siccome lui dice anche le antenne del televisore sue, di tutti i figli e belle varie, capito, ma la tua? Se c'è un piccolo disturbo, chi accusa a me? Adesso non sei disturbata, lui lo disturbi adesso. No, negativo, non disturba nessuno. Boh, non so cosa dici, però vedi tu. Quello è, capito, e poi le farfulle. Magari c'è qualcuno qua in zona, siccome qua in zona c'è qualcuno che... Se sicuramente suona anche la frequenza, perché non può essere, che ogni tanto c'è l'euro che si vede perfettamente, capito, proprio a strisce, però non so come io. Non lo so, Daniele, è con il vicinato dei disturbi. A nessuno, l'unico che disturbo, che così mi ha detto, è il telefono di quello lì, di quel coso deve essere di quello di fronte, lì ce lo faccio squillare. Qual è il telefono? Allora, io ce l'ho fatto squillare il cordless. Il magazzino. Non ti ho detto niente. Lo facevi squillare con la fattura presentatore? Non lo so. Dice che nel mese che l'ho ricoverato non squillava più il telefono, capito? Mentre prima che ero sempre qua, dice che gli squillava il telefono. Infatti se mi dice qualche cosa dico, portalo a casa e facciamo le prove. Non è una cosa possibile. Infatti, anche a me sembra strano. O c'ha problemi di linea lui? Non è portato sul... c'ha una batteria con la punta. Con la punta da 6 o da 8, punta da 8. Da 6 è tutto. Il filo ce l'ho, c'ho tutti i tiranti. E ci stiamo sopra io, che c'è un casino della Madonna in questo tetto. Devo buttare anche con le antenne VU di quella signora che tanto non li utilizza. Cava, anda per aereo. Ma tu gli se gli faceva il favore buttarli giù, quindi adesso quando salgo la faccio anche con la roba lì. Cava, anda per aereo. Stamattina ho comprato il filo rosso e nero. Non te lo dai. Allora. Dentro lì c'è invece anche il fuggibile di protezione con l'amplificatore. Raba, bisogna guardarlo, l'ho ancora aperto. E beh, c'è il fuggibile di protezione, perché se non ce l'ha bisogna mettergli uno nel filo, Raba, se no guai. E se non è un problema, se non è incorto qualcosa si brucia tutto lì. Raba, anda bene vera. Che è Diago? Ma si intende? Cosa vogliamo lo so, questa guarda mi sta abbagliando. Comunque il commutatore del 40 io ce l'ho, eh. Cosa fra, che è il volume basso? Ce l'ho il commutatore del 40, per lì. Cava, mi sa che lo piazziamo. Farlo con la calma, ci vuole una lampada che faccia un bel po' di luce per farlo, Cava, per rilassarsi bene i fili, se no è un casino. Quali fili? Non ha fili, cavi. Io sono del commutatore vecchio, invece ci mette l'altro commutatore, basta, non devi fare altro lì. Cava, non lo so, l'ho mai smontato lì. Cosa fili? I fili non devi toccare da lì. Brava, già va bene. Ma già si può fare tranquillamente a voglia. Appagappa. E Teresa sta mangiando i semi. Nel divano, sta guardando cosa? Don Camillo. Ah, Don Matteo. Don Matteo, di Scia. Mamma mia, e Don Pirignon. Che si è un solo, per carità. Per carità. Lui c'ha radio, la mazza della regia. Mamma mia. Venga. Ma sento una radio io, francese, arabo, cos'è, ma la sorsiè. E dove? Ah, è insomma. No. Ciao. Anzi, sono attaccato alla sua antenna, agli altri apparecchi che c'ho, che serpeggio. Però io, se magari qualche segnale privato sta entrando lì. Cioè, bro, allucinante, faccio pensare che fosse qualcuno che avesse messo musica. Cioè no. Però io, dove ti dica? Per un casino ai nobbi, altro che. Però io sono proprio sul tetto. Brava, brava, è un casino, mamma mia. Poi io... Domani è venerdì. E ma com'hai? Anche questa settimana è andata. Aspettate ad arrivare lunedì, torno. Per carità. Cazzo, vola, arriva sabato, poi già domenica. Dai, purtroppo è gay. E sono è gay, guvimi. Così è. Mamma mia, vedi nuovo lavoro. Davvero. Davvero, cosa mi aspetta? Ma corretto. Poi ho finito. E se ne parla a lunedì. Il 31 non lavoro. No. Va bene, veda. Lo stesso, il 31 devo fare la visita. Pusta. Quando? Il 31 è giovedì grasso. E beh? Devo fare la visita. Di grasso un buon visite, va. Allora, se l'ha fatta apposta. Niente. Purtroppo se devi andare, vai a fare le cure, devi fare. Brava, spero che sia una volta buona. Guarda, una cosa, la salute è la prima cosa principale. Ah, quello sì. Cazzo, se sei con la salute non c'è nessuno che la restituisce. Medaglia, non me l'hanno. Oh. Ehi, vai, ehi, poi mi sei su di voi, ma la fatti nuda. La vedi la prendere come viene. Ehi, infatti. Sì, sino guai, se ti dispiego adesso. Guarda, bisogna lavorare, perché se non si lavora è un casino. Anche quello è vero. Cava, cava. E così, e bu. Dai. Intanto te lo vedi con l'MP3. Allora, fra. L'MP3 è caricato, te lo vedi. Via. Quale cazzo mi hai messo? Che c'è cioè il computer, ciò. Ma quelle che ce ne vogliono sono scaricate. No, relativo. E scarichiamo sulla penna USB e poi la mettiamo lì. Cava, devo mettere il computer, però il computer mette male nell'MP3. Io ho già caricato sulla penna USB. Dava, dava, presa te vai. Ehi. Unica. Non avevo questa roba in mano, ma appena hai finito dentro e ci fai tutto quello che vuoi. E io lo stesso me lo devo prendere, perché ho i floppy disattivato. Io lo comprai con un'altra cosa che tu sai. Cava, quella fallo, quello del codo. Io lo grido io. Cazzo allora, va bene. Mi sa di farlo, che lo faccio. Ah no, davvero. Fallo, approfitta, no. Yeah. Fallo aumentare il volume di questa radio, là. Allucinante. Secondo, come mi sposto la sento di più, avevi credito? Quello è qua che rientro. C'è qualche ripetitore qua di qualche canzone in radio, che non può essere. Come mi sposto, con le cuffie e sento benissimo la radio. Ma che radio senti? Che radio è? Che usa musica o che cosa? Forse c'è una radio, sento roba straniera, capito? Canzoni straniere, tipo arabe, roba del genere. Ma la radio che avrebbe le frequenze non li sa parecchio. E che l'hai toccato? Dove sembra strano. Se attacco, credo, se attacco un'altra parecchia, un'altra antenna, che c'è la stessa cosa. Ma lo stesso. Lo stesso, mentre non so sono le radio straniere. Ma è che mai capitato una cosa del genere? Allucinante. Non la sento più. senti la frazione che non è ben centrata, la senti o non la senti? Cosa è Nocchi? È sempre uguale. Aspetta, fa il passaggio. Vedi un po'. 9.25. K. La radio come va bene? Va benissimo, Fla. K. In cuffia un bombo. Aspetta che li attengo un po'. E sciate, c'è la Lucia, dovrebbe essere. Ah, va, chiudo l'RF gain e intendo la radio. Da dirti. Lo rimetto come prima, già tutto verso destra, non lo sento più la radio. Quando mi dice che non ti intendi questa cosa? Quindi è tutto aperto la senti? Se giro tutto verso sinistra, tutto chiuso, sento la radio. Se giro verso destra, non sento più nulla. Dovrebbe essere il contrario. Cioè, se giro verso destra, quando è tutto aperto, dovrei sentirla. Beh, invece è il contrario. Se sento verso sinistra, se attenuo, sento la radio. Se invece rimetto la posizione che deve stare tutto verso destra, allora non la sento. Adesso qui in mezzo a qualche onda strana qua. C'è qualche disturbo atmosferico da qualche antenna privata, non è certo. Perché è quello? Come rispetto con le cuffie? È come se avessi un'antenna, capito? Che la sento di più, la sento di meno. Ma gamba. Ma non la intendo più. A me di carne il dito. Ehi, Astra, adesso un